Bentrovati e benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi, in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM, un salotto convivio tra i musicisti e tra gli addetti ai lavori, e non solo, rivolto a soddisfare tutte quelle che sono le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre il nostro viaggio una graditissima e già nota voce di Radio Fucico, Francesca Clementoni. Benvenuta Francesca, Suoni Paralleli. Eccomi qua. Come va? Come va? Tutto bene? Questa è già la terza puntata, abbiamo avuto modo un po' di conoscerci, di capire un po' quelle che erano le nostre influenze, anche un po' i nostri punti di vista su diversi argomenti, no? Abbiamo avuto nella nostra prima puntata il maestro Felice Del Gaudio insieme al DJ producer Farrapo. Nella nostra seconda puntata abbiamo intervistato Piero Ricci, un operatore del settore eventi. E oggi abbiamo ancora anche oggi la fortuna di andare a intervistare due esponenti che fanno parte del grande panorama della musica che Bologna produce, possiamo dire così, quindi due artisti che esercitano anche la loro attività a Bologna, anche se poi non entrambi sono di Bologna. Abbiamo con noi Light Mind, DJ producer, DJ Holly, qualche tempo fa, diverse volte abbiamo avuto modo di conoscere i suoi brani sia su Radio Fucico che sulle altre radio cittadine e non, molto suonato anche da diversi DJ a livello internazionale. Ci fa molto piacere, benvenuto Light Minded a Suoni Paralleli. Grazie mille. E Gabriele Gubellini, benvenuto Gabriele, Organic Shapes, anche lui musicista, suonatore di didgeridoo, si può dire una delle più grandi delle arti musicali contemporanee per quello che riguarda io l'ho sentito suonare il didgeridoo. Ti è piaciuto? Bello. Non avevamo dubbi da buon gusto a quale sei, mister Gabriele Gubellini, Organic Shapes, benvenuto a Suoni Paralleli, Gabriele. Grazie, ciao a tutti. Bene, Francia. C'ha un bel suono profondo. Sì, è decisamente profondo, è decisamente molto caldo come strumento e direi che ti dà quella sensazione proprio effettivamente che il suono dello strumento corrisponde ad un'epoca molto molto lontana che poi sappiamo essere l'epoca del sogno degli aborigeni, vero Gabriele? Sì, sì. Noi diamo per scontato questo, gli aborigeni sono custodi del segreto della nascita del didgeridoo, quindi sì, comunque sì. È molto molto antico. Ci sono stati tanti modi in cui noi abbiamo collaborato anche proprio personalmente, Gabri, mi fa davvero piacere che sei qui perché oltre ad avere poi modo di parlare di tutte le nostre esperienze anche passate a livello musicale, delle tue soprattutto, volevo proprio parlare con i nostri ospiti e con Francesca anche delle nuove evoluzioni che riguardano i didgeridoo. Ci sono un sacco di nuovi modelli di didgeridoo, ci sono questi didgeribone che sono usciti ormai da qualche anno, ci sono delle nuove versioni che vengono fatte con materiali diversi, quindi si è passati dal tradizionale eucalipto, che era lo strumento trovato da Hidaki, no? Dio delle tribù. Me la ricordi ancora? Sì, me la ricordo benissimo perché è una delle più grandi parti dell'etnografia che mi ha interessato davvero veramente nei tempi che furono e che ogni tanto mi fa piacere riproporre. Quindi parleremo, avremo modo di approfondire, però volevo parlare con te anche insomma le tue ultime produzioni perché sappiamo che stai avviando la produzione in un nuovo senso, in un nuovo ambito. Sappiamo che ti stai occupando in questo momento di musica anche elettronica e di produzioni elettroniche, ma andremo adesso a breve ad ascoltare tutto quello che riguarda Organic Shapes, oltre che le produzioni anche di cui fa parte Light Minded, che sappiamo benissimo essere non solo un DJ insomma che ha avuto modo di calcare diversi palchi di diversi locali di Bologna, ma nonostante insomma la situazione discografica internazionale sia molto complicata, da poco tempo anche Light Minded ha avviato la produzione vera e propria con un'etichetta discografica delle nuove produzioni che si chiama Switch Record, giusto? Switch Music Recordings. Ok, eccola lì, avremo modo di ascoltare, scusami la defaianza, avremo modo di ascoltarla. Io direi, proprio perché parleremo tanto tanto di produzione, prima di far cominciare anche Francesca con la parte delle curiosità, no? Che riguarda i nostri tante ospiti. ne ho tante. Sei curiosa, l'ultima volta che avevi questa curiosità con Farrapo e gli hai chiesto che cos'è un producer, mi ricordo, ma poi l'hai capita questa cosa? Ma insomma, no, ok, così, adesso così, vediamo se ce la rispiegano loro, vediamo se riusciremo ad aprire questo paradiso dei producer anche a quell'opinione di Francesca. Sono curioso di sapere che ne pensi del mondo dei producer, credimi. Adesso quando capisco che cosa sono. Allora facciamo così, ne faccio ascoltare subito uno che secondo me è tra quelli veramente più segnalati in Europa. Io ho il piacere di farlo ascoltare anche sulle frequenze di Radio Città Fucico. Secondo me se lo merita, lui è un producer inglese, si chiama Gold Panda. Ben trovati e benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre Francesca Clementoni. Ancora ciao Francesca, benvenuta. Non come sono stai? Ancora andata via. Bene, sei rimasta qui ad ascoltare, sì. Gold Panda, che bellissimo, stavamo ascoltando, bellissimo. In questo momento, com'era? Uno dei, diciamo, producer più apprezzati in questo momento sulla piattaforma europea. Ne parlavamo con i nostri ospiti, ancora benvenuti, Light Minded di Switch Music Recording e Gabriele Gubellini, Organic Shapes. Stavamo parlando di diversi argomenti anche nel fuori onda, giusto Franci? Parliamo in generale spesso a Suoni Paralleli di diversi argomenti, come la produzione per quello che riguarda sia la parte musicale che la vera e propria parte, diciamo, creativa e anche, perché no, manageriale. Abbiamo parlato anche di quello che poi è la fruizione per il pubblico, quindi dei cosiddetti live, abbiamo parlato di tutto quello che può essere riferibile anche al mercato, quindi per la fruizione del pubblico. Quello che spesso ancora non abbiamo ancora indagato è uno degli elementi che mi fa molta curiosità, soprattutto riferibili al mondo dei producer, come abbiamo avuto modo di ascoltare per ora, insomma, anche dai nostri ospiti. Volevo parlare proprio con Light Mind di Gabriele Gubellini, proprio di questo argomento. Parliamo un po' di produzione. Parlavamo prima, Light Mind, mi rivolgo a te per cominciare, proprio perché so che da poco di produzione ti sei occupato nel vero senso della parola, dando vita ad una nuova casa discografica, ad una nuova realtà discografica qui a Bologna, che si chiama Switch Music Recording. Quindi una mole di brani già in giro, scusami a questo punto, ti dicevo che essendo un'etichetta nata da un anno in realtà, io la parte che mi incuriosiva molto e ti volevo chiedere, proprio perché non immaginavo che un'etichetta nata da un anno potesse avere già una produzione così intensa, no? Franci, ci pensi, sono già più diverse release, siamo arrivati anche alla realizzazione di una compilation con più artisti, vuol dire che il mondo degli indipendenti in Italia è più che... Esatto, è in fermento, ed è questo che interessa a noi di Suoni Paralleli, è lì che vogliamo andare un attimo a capire. Quello che ci fa curiosità è portare al nostro pubblico delle conoscenze, come ad esempio le parti tecniche che coinvolgono la gente, fino ad arrivare alla realizzazione di una compilation. In questo caso, come si arriva dalla produzione, quindi dal semplice producer di cui abbiamo già parlato e che rispiegheremo a Francesca a breve, vero Francesca? Fino all'elaborare una produzione discografica, arrivare ad una release, per poi arrivare ad una compilation di artisti, quanto è difficile in questo momento, e se vuoi dare qualche consiglio. Sì. Allora, vabbè, un consiglio lo do subito ed è quello di essere a più aperti possibile al mondo della musica in generale, parlando ovviamente di musica di qualità, quindi non parlo di robe commerciali o dance super commerciale, insomma, diciamo così. E quindi mi rivolgo a tutti i generi musicali, infatti c'è, ascoltate, io la compilation. Io direi commerciale, direi facilona, perché può essere una cosa. Ma non sempre è facilona, però non mi trovi molto d'accordo. Di qualità, perché non sempre la musica commerciale risulta essere facile. Anche a livello di fruibilità. Sono di intellettuali che fanno musica commerciale e tu non lo sai, Franci. Ma è quello che volevo dire, che commerciale non sempre è tirato via. La semplicità è comunque uno dei traguardi più difficili da raggiungere per qualsiasi tipo di arte. Forse una volta, adesso è complicato comunque anche quel mondo, però sono due settori differenti. Quindi noi ci dedichiamo a un mondo più, diciamo, underground, anche se questa parola ormai è strausata e si aprirebbe un mondo. È tutto indipendente, un po' tutto underground. Esatto. Attualmente tutti alla ricerca con i social della loro nuova major. Sì, esatto. Il grande fratello che comunque lo scopo della compilation era appunto celebrare il primo anno, dando modo di, diciamo, volendo far ascoltare le nostre produzioni a un pubblico più ampio, quindi non solo al pubblico che ci segue nei club durante i nostri showcase o le serate che ci vedono coinvolti come singoli. E inoltre io non sono da solo come Switch Music Recording, ma siamo stati tre fondatori, c'è un altro DJ producer e c'è un che salutiamo, Mr. Spongix, e c'è Alessandro Raffo, che è un nostro DJ, si occupa della grafica, del visual. Sì, diciamo che soltanto con un'equipe ben organizzata in qualche maniera che poi si riesce a portare una produzione ad un livello decente, esatto, questo che stai dicendo in pratica. Esatto, adesso stiamo cercando di ampliare il tutto, perché c'è un altro ragazzo ancora che si occupa del booking management, quindi adesso non ci procuriamo più noi da soli le serate, ma c'è questo ragazzo. C'è un altro ragazzo, un settore che si aggiunge a quello editoriale, che sappiamo tutti essere un settore ben diverso in questo senso, e invece spesso e volentieri vengono confusi i settori, bisogna un po' chiarire, soprattutto perché negli ultimi anni c'è stata un po' una differenziazione vista la crisi del mercato discografico, insomma. Esatto. Chi fa booking è molto molto diverso da chi si occupa in realtà della sezione editoriale di un progetto. Bene, io direi di andare ad ascoltare a questo punto una parte della compilation dell'ultima di Switch Music Recordings, giusto per dare ai nostri ascoltatori una pillola su quello che è il sound proposto da questa etichetta specifico in questa compilation, che ripeto è molto particolare, differente rispetto agli EP, quanti, 7 EP che sono usciti prima, quanti che artisti sono più di stampo techno e quindi più da club. Quanti artisti sono presenti su questa compilation? Sono 7, mi sembra 7, adesso magari mi sbaglio, però mi sembra 6-7. C'è stato un criterio? Questo te lo chiedo proprio al volo. Sì, allora ho fatto una grande ricerca più che online, proprio a livello contatto umano. Ah. Ho fatto una grande ricerca di energia. vediamo qual è stata l'energia che ha portato poi all'interno di questa nuova compilation di Switch Music Recording. Troviamo il brano diverse, Circle, diversi che stiamo, producer, esatto, che stiamo per ascoltare. Ne ascoltiamo uno. Questo è il brano, okay, Circle, e di Gino Di Fazio. Di Gino Di Fazio per la Switch Music Recording. Parlavamo appunto col nostro ospite di questa compilation che ha un po' sancito l'anno di vita della Switch Music Recording, e a me veniva una curiosità: qual è il lavoro che deve essere fatto rispetto appunto a fare un EP che è un brano fondamentalmente? Sì, pochi brani, sì, sì, sì, però monografici, diciamo, sì, così. Sì, sì, sì. Qual è il lavoro di spulcio, di raffinazione, di scelta che viene fatto per fare una compilation, e anche non solo per farla la compilation, per comporla, ma anche per poi decidere in quale ordine mettere, sì, i brani? Allora, diciamo che, come stavo dicendo anche prima, ho fatto un lavoro molto sul campo, nel senso, innanzitutto mi sono rivolto alle persone che già conoscevo, che sapevo che le loro capacità musicali erano elevate, e tra cui Gino, che è un pianista principalmente, suona con una band. Sì, ci sono molti che musicisti. Che è la band di Antonino, tra l'altro. Del Barresi Project. Il Barresi Project. E... nonché coordinatore tecnico del programma, bisogna dire. Al, ecco, nostro staff si scoprono tutti gli altarini. E quindi vabbè, parto da lui per poi arrivare anche agli altri. Nella compilation troviamo per esempio un mio remix fatto per una band che si chiama Torakiki, che è una band nata qui a Bologna, che adesso magari andiamo anche ad ascoltare, esatto, e dove c'è la voce di una cantautrice bolognese che si chiama Giulia Olivari, bravissima secondo me. Ci sono molti musicisti che hanno collaborato quindi, sì, a questa compilation. Poi c'è... oltre ai producer classici, sì, esatto, insomma, quelli che si occupano di macchine. Esatto. Poi c'è un'altra ragazza che si chiama Tullia Benedicta, che è di Ravenna, che ha vissuto per un periodo a Londra, ha fatto un gran curriculum secondo me, e l'ho scovata anche lei quasi per caso, ma comunque diciamo volutamente. Volevo un suo brano dentro la compilation, ce l'ho fatta, è stata gentilissima. diciamo, insomma, che è stata una vera e propria attività di scouting. Esatto. Proprio una vera e propria cimentato con un'altra parte della vita della produzione, visto che tu sono anni che ti occupi di produzione, poi, però nella parte artistica, diciamo, creativa. Poi principalmente i miei contatti grossi sono più nel campo della musica techno, quindi più nel campo del quattro quarti, diciamo così. Ma hai lavorato più sulla consonanza, diciamo, tra questi artisti dal punto di vista musicale o dal punto di vista creativo, ovvero dell'innovazione che potevano portare nei loro brani? È la seconda cosa che hai detto, sì, sicuramente. Perché ad esempio Gino di base è un pianista, un tastierista. E allora direi andiamo proprio ad ascoltarlo, questo remix di Light Minded all'interno della compilation di Switch Music Recording, questo remix del brano dei Torakiki feat. Giulia Olivari, la nuova produzione di questa compilation da pochissimo su tutte le piattaforme digitali a vostra disposizione, diciamo, per Radio Città Fujiko. Questa è Torakiki feat. Giulia Olivari. Ancora ben trovati, benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103 FM, un salotto, un convivio tra musicisti e addetti ai lavori, ma non solo, rivolto a soddisfare a quelle che sono le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a co-condurre questo programma Francesca Clementoni. Ancora benvenuta Francesca. Abbiamo Grazie. Da poco presentato anche i nostri ospiti, abbiamo già avuto modo di parlare di alcuni argomenti che riguardano la produzione, quindi abbiamo ascoltato diverse release. Il secondo break di Suoni Paralleli, diciamo che si apre riprendendo un po' lo stesso argomento. Volevo continuare a parlare con loro di produzioni, ma stavolta non più dal punto di vista discografico. Abbiamo appena parlato di Switch Music Recording con Light Minded. Volevo parlare con il nostro ospite, anche Gabriele Gubellini di Organic Shapes, di diverse produzioni che poi fanno parte del mondo anche del panorama della world music chill out in qualche modo, quindi di un altro genere di produzioni che spesso vede impegnati, come nel caso della release della compilation di Switch, molti musicisti. Quindi c'è un, ti posso fare questa domanda, secondo me si può ravvisare in questo momento un avvicinamento tra i vecchi DJ, quindi il vecchio stampo dei DJ producer e i musicisti, cioè chi sta andando incontro a chi, e c'è una linea di mezzo, si stanno avvicinando tra di loro le due realtà secondo te, Gabri? Sì, si stanno assolutamente avvicinando, anche se credo che probabilmente, forse così di prima botta mi viene da rispondere che chi si sta avvicinando di più in questo momento sono i musicisti per rispetto curiosità. Ai DJ, per curiosità, per un mercato nuovo che si può aprire. È bello che ci sia questa commistione, ma non è una qualità in più che hanno i musicisti quella di voler cercare questo incontro, è che semplicemente probabilmente rispetto al mondo dei DJ, che comunque sono nati relativamente più giovani rispetto ai musicisti, cioè si parla veramente di migliaia di anni, neanche di decine di anni, quindi probabilmente nella musica suonata comincia a sentirsi da un lato un vuoto, perché come dico io spesso è già stato fatto tutto, e dall'altro appunto la necessità quindi di doversi inventare qualcosa di nuovo, e di conseguenza anche la necessità e la voglia, no, di lanciarsi in una sperimentazione con sonorità. L'elettronica viene un po' incontro anche un po' a questa esigenza, magari, assolutamente, no? Anche perché l'elettronica vissuta in maniera più musicale in realtà è un universo quasi senza confini, nel senso dove puoi trovare tutto quello che vuoi, un musicista può trovare tutto quello che vuole a livello proprio anche di sonorità, di calore o freddezza, al contrario, no? Volevo chiedere, Olli, nell'approccio adesso con gli ultimi musicisti di cui stavamo parlando prima del break pubblicitario, a proposito della compilation, tu li hai visti curiosi, i musicisti, di approcciare ad una realtà più elettronica, di sì, tipo discografico? Sì, assolutamente, sì. Poi nello specifico i Torachiki vengono già di base, fanno elettronica, anche se suonano degli strumenti anche sono tradizionali, musicisti, diciamo. Però sì, assolutamente mi hanno fatto questa richiesta con proprio questa voglia di approcciarsi ancora di più al mondo dell'elettronica. Immagino anche l'imbarazzo dal punto di vista pratico, cioè non tutti i musicisti hanno delle cognizioni di tipo tecnico sulla parte software, diciamo, che riguarda la musica e la parte della produzione, come in questo momento l'Home Recording sta, diciamo, facendo vedere. E quindi spesso e volentieri li vedo smarriti, soprattutto insomma quelli che hanno dedicato la loro vita, la loro parte musicale allo studio, no, della musica, per quanto grande essa sia, in realtà ancora tanto, secondo me, da scrivere. Come li vedevi? Li vedevi intimiditi da questo mondo elettro che non conoscevi? Sì, è un mondo nuovo, è come se io comunque mi approcciassi a un mondo più fatto di musicisti, io non sono musicista, quindi anche per me è un po' di timore, un po' di curiosità allo stesso tempo. Hai visti tentare un approccio di tipo, che ne so, hanno usato lo spartito, per esempio? No, non hanno usato lo spartito perché appunto già il suo background di bene, quindi era un impro, l'hanno vissuta, sì, come un'esperienza trascendentale. Bella, sì, sì, esatto. Sì, sì, interessante. Bene. Direi che tra l'altro ci sono alcuni casi, tra l'altro, in cui musicisti e producer coincidono favolosamente, sono davvero tantissimi. Spesso quelli che riescono al meglio nelle loro produzioni sono quelle che hanno proprio un'anima e una preparazione di tipo tecnico-musicale di base, che poi approcciando l'elettronica usano l'elettronica proprio per ampliare il loro raggio, sì, d'azione. Anche perché anni e anni, no, di studio e di partiture, se vuoi anche, sì, o di scale e arpeggi, tanto per, sì, rendere l'idea, comunque ti attrezzano l'orecchio, la sensibilità, dopo si va esattamente nella direzione in cui diceva Gabriele, ovvero che sai cosa vuoi cercare, il suono caldo, il suono freddo, il suono particolare, la movimentazione. C'è uno scalino, mi permetto di dire una cosa però, e questa è lo scalino che io personalmente mi sono trovato ad affrontare ormai qualche anno fa, che è comunque l'aspetto tecnico. Cioè, quando tu apri un computer e lo usi per fare musica, è come se diventasse uno strumento musicale. Quindi tu devi studiare da zero uno strumento musicale. con tutto quello che può starci dentro un computer. Quindi l'aspetto tecnico lì diventa fondamentale. C'è da fare questo salto, nel senso che bisogna approcciarsi e bisogna perderci parecchie ore di studio. È uno strumento nuovo, no? Come tutti gli strumenti, esatto. Va rispettato e bisogna avere del tempo. Può essere la stessa operazione che hanno dovuto fare, che so, adesso dico magari una bestialità, il fotografo analogico quando ha approcciato alla fotografia digitale, quindi poi a tutti i software di elaborazione della fotografia, eccetera. Assolutamente, eccetera. Sì. Certamente sì. Assolutamente, ma anche lo stesso i grafici che una volta disegnavano a mano e adesso disegnano con il computer. Esatto. No? E quindi è un ampliamento, no? E bisogna studiare parecchio, anche perché l'elettronica e poi la digitalizzazione della musica è sempre in evoluzione, quindi per stare al passo con i tempi, insomma, parte di tutte le giornate vanno dedicate allo studio. Andiamo allora ad poi ascoltare. Poi volevo aggiungere una cosa, se sì, posso. Beh, certo. Comunque negli ultimi tempi sta tornando in voga la questione analogico, quindi stanno tornando dei musicisti a questo punto che già usavano dei sintetizzatori analogici in passato, e quindi diciamo il ragazzo che usa delle tecnologie digitali si sta convertendo anche lui e sta tornando un po' indietro, no? Quindi c'è un punto di incontro quasi spostato indietro nel tempo, perché comunque stanno tornando moltissimi strumenti analogici, i software che diciamo quelli più noti tipo Ableton Live, anche loro stanno facendo una sorta di programmazione più orientata all'utilizzo di strumenti esterni, quindi non solamente il computer, per poi arrivare ad un suono più originale possibile. Esatto. Che non si rifaccia tramite dei semplici software e dei semplici hardware, insomma, al programma originale. Cioè, insomma, un suono originale di un Hammond o di un Rhodes ancora rimane una delle cose più belle che c'è, che è il campionamento, no? È uno degli ambienti più innovativi del settore musicale contemporaneo, no, Franci? Io direi di andare ad ascoltare uno che di campionamenti se ne intende, e che anche però si intende di parti e di sezioni musicali, un chitarrista producer che abbiamo già avuto modo di ascoltare nella prima puntata. Lui è un producer che da poco sta cavalcando l'onda su diverse piattaforme, è conosciuto col nome di Grammatic. Questa è It Liver. So let's make some noise, why making this all and then eccoci rientrati a Suoni Paralleli. Parlavamo con Organic Shapes, con Gabriele Gubellini e con Light Mind di Switch, delle nuove influenze, diciamo delle nuove commistioni tra i musicisti e la parte elettronica della musica contemporanea. Ci stavamo ascoltando una delle produzioni, uno dei producer che più sta andando ultimamente, che è Grammatic. E volevo chiedere, proprio perché ascoltando Grammatica adesso mi è venuto in mente un po' tutto il discorso dei musicisti che approcciano la parte elettronica, Gabriele, anche tu con Organic Shapes stai operando in questo senso, vale a dire stai avvicinando degli strumenti alla parte tua elettronica, alla produzione del beat, del beat making nel senso più ampio del termine possibile, insomma. Volevo capire quanto con uno strumento sia immediato entrare in un software, secondo te, e quanto, a parte lo studio di cui parlavamo prima, cioè il fatto che ci voglia un tot di ore per studiarlo, però ci può essere uno strumento che magari ti facilita rispetto ad un altro, ad esempio Grammatic che è un chitarrista, rispetto ad un didgeridoo che è lo strumento che, diciamo, il tuo strumento di cui ti occupi, può aver avuto delle facilitazioni, oppure tu, perché si parla di beat making in questo senso, sei stato facilitato visto che il didgeridoo è uno strumento ritmico? Per certe, sono secondo me validi entrambi i discorsi che hai fatto, nel senso che sicuramente, partendo dall'ultima cosa che hai detto sul discorso della ritmica e del beat, il didgeridoo e non solo, perché prettamente è sì uno strumento ritmico, ma è anche uno strumento dove il suono viene modulato, no? Ed è molto semplice, poi magari per chi lo suona, ma secondo me anche per chi lo ascolta e ha presente il suono di base fondamentale del didgeridoo, che è questa vibrazione, no? Che viene modulata un po' come succede in un sintetizzatore, per l'onda emessa da un oscillatore. E è una modulazione di un'onda sonora, di conseguenza c'è un link anche che non è solo a livello ritmico. E per quanto concerne gli strumenti facilitati o meno, c'è da dire una cosa, sicuramente probabilmente a livello di editing, quindi quando si entra proprio nel processo di, insomma, dall'immagazzinamento del suono, quindi dalla registrazione, no? Quindi al lavoro che viene fatto, no? Sul suono registrato, alcuni strumenti possono essere facilitati, per quello che è la mia esperienza, che ribadisco è molto segnata dal didgeridoo, e dalla gamma di frequenze sui quali questi strumenti suonano, nel senso che diciamo che meno frequenze occupano questi strumenti proprio sullo spettro, probabilmente più facili sono da lavorare, da far entrare in un contesto elettronico dove soprattutto in determinati generi, ma in quasi tutti i generi elettronici, le basse frequenze sono già occupate dalle parti elettroniche, e bassi e casse e normalmente anche linee di synth. Cioè, quindi, tipo un contrabbasso avrebbe qualche problemino in più rispetto, che so, a un ottavino, ad una tromba. Sì, guarda, e se vuoi, tromba, magari sì. Dopo ascoltando anche un'altra cosa ne se ne può parlare. Io ho incontrato recentemente un problema, se vogliamo chiamarlo così, in realtà un problema, in realtà è anche uno stimolo, no? Proprio nella lavorazione di suoni di questo tipo, c'era in questo disco che ho appena finito di registrare insieme ad un altro ragazzo, suonavano insieme didgeridoo, contrabbasso, linee di synth, un sax, quindi è stato molto difficile il lavoro di soprattutto iniziale di mixaggio, no? Proprio per andare a pulire e far occupare agli strumenti le giuste frequenze perché suonassero come strumenti reali, ma e quindi allo stesso tempo non distorcessero, non diventassero suoni troppo distorti dalla realtà, se non effettati, quindi se non volutamente lavorati. E quindi lì c'è stato, insomma, non è stato facile, ecco. Però insomma, anche perché insomma il campo di frequenza è quello, quindi bisogna sistemare. Quindi di andare ad ascoltare uno dei tuoi lavori sulla produzione, quindi l'incontro tra gli strumenti analogici, in questo caso il didgeridoo, e l'altra parte di Organic Shapes, quindi la parte electro. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Vox in Tempore e fa parte dell'ultimo lavoro di Organic Shapes. We'll be right back. Questa era Vox in Tempore di Organic Shapes, una delle produzioni di Gabriele Gubellini nell'ultimo periodo di attività, insomma un incontro tra gli strumenti analogici, quindi il didgeridoo e i sintetizzatori usati da Gabriele, e tutta la sezione beatmaking elettronica che ultimamente sta influenzando l'attività. Parlavamo prima, Gabri, di questo incontro, quindi del se può essere più facile avvicinarsi da didgeriduista o da chitarrista ad uno strumento analogico. La verità è che spesso e volentieri sono comunque due lavori separati, no? Per quanto secondo me, insomma, si può fare un grandissimo lavoro, vedi Grammatic, arrivando dal mondo della musica a diventare un producer, ci sono delle componenti che poi diventano un po' le specializzazioni di ognuno dei due. Secondo te si può essere uno specialista nella musica e uno specialista nella produzione, nel beatmaking, secondo te? Bisogna vedere dove sta l'asticella del livello di specialista, nel senso che credo che si possano ottenere buoni risultati e seguendo una linea che è un po' la linea che diceva Only all'inizio, no? Diceva Lightminded, essere aperti al più possibile, essere a contaminazioni, sì, a contaminazioni. Io aggiungo non farsi influenzare e continuare a perseverare nel fare quello che realmente vogliamo fare. Di conseguenza il tuo lavoro diventerà specifico nell'insieme. Stessa cosa all'interno anche della tecnica di un singolo solo strumento musicale. Ci sono suonatori di didgeridoo che hanno esplorato in Italia, visto che rimango un attimo sul mio strumento, che hanno esplorato l'aspetto tecnico dello strumento, cosa che io non ho fatto. Non l'hanno, cioè meno, io non l'ho fatto in maniera così esasperata, ok? Ma ho cercato di tenere quello che mi serviva per fare quello che io volevo fare, quindi è stato un po' asciugare, e questa forse è la cosa più difficile, no? Tendenzialmente, certo, fa parte un po' del discorso che impari a suonare quando impari a stare zitto, come si dice, bravo, no? Esatto, infatti, esatto. Come dicevano i grandi, quella zitto, famosa nota che se sai quando la devi fare anche se una sola può avere molto più efficacia di tanti discorsi e parole e linguaggi che si vogliono aggiungere. Io direi di andare a fare, di andare ad ascoltare una tua collaborazione ultimamente, sì, che stai portando avanti con l'altro didgeriduista Gianni Placido, e questa è una produzione, ce la vuoi presentare tu? Sì, volevo Life, solo, no? Aggiungere una cosa sul brano che abbiamo ascoltato prima, perché era molto inerente al discorso che è stato fatto. In quel brano, in realtà, che non è solo una cioè è una produzione Organic Shapes, perché comunque sono io che ho lanciato l'idea, ma ci sono due musicisti che hanno abbandonato i loro strumenti, e sono strumenti abbastanza che normalmente chi suona questi strumenti ha difficoltà ad abbandonare, perché sono le pelli, le cosiddette pelli, quindi un percussionista e un batterista, che per sposare il progetto e con tanto entusiasmo si sono messi sulla versione dei loro strumenti digitale, e quindi Gaetano Alfonsi e Danilo Mineo, che suonano con me, suonano una batteria elettronica e una percussione elettronica. Benissimo, mi fa davvero piacere che poi ci sia lo slancio anche da parte dei musicisti, quindi grandi sicuramente Gaetano Alfonsi e Danilo Mineo, che di solito insomma si occupano di anche generi tradizionali dei loro, esatto, settori, rispettivi strumenti, e ci fa davvero piacere, significa essere eclettici, significa essere grandi musicisti come loro sono. Io volevo, Gabri, far ascoltare quindi questa tua collaborazione con Gianni Placido, un altro didgeriduista. Il brano si intitola Life, ce lo vuoi presentare? Una produzione che sta per uscire. Sì, questo è il singolo, diciamo, di lancio del disco, del nuovo disco, in realtà del progetto di Gianni, perché comunque insomma uscirà come sotto il nome Aborigine, che è appunto il nome del progetto di Gianni Placido. Andiamo ad ascoltare questa canzone, questa è Life, quindi tratto dal disco Aborigine in uscita di Gianni Placido, la collaborazione con Gabriele Gubellini. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata, sì, che è stata veramente densissima, Antonino. Anche un altro sabato in compagnia di Suoni Paralleli sta per volgere al termine. Sì, in compagnia di tanti ospiti, come siamo abituati ormai a fare, ci trattiamo molto bene. A me Olli e Gabriele sono piaciuti tanto. Bene, bene anche a noi. Grazie. Ai nostri ascoltatori, abbiamo fatto un viaggio tra le varie sonorità, un approfondimento come Suoni Paralleli sulla musica a 360 gradi. Abbiamo ascoltato da Gold Panda Grammatic alle produzioni di Switch Music Recording con Light Minded e Gini Di Fazio. Siamo passati a Organic Shapes. Io direi di salutare e ringraziare i nostri ospiti, ancora facendo un tributo ad una delle loro produzioni, e dando l'appuntamento a sabato prossimo con Suoni Paralleli, con tanti nuovi argomenti, sempre approfondendo quelle che sono le curiosità che girano intorno a questo mondo favoloso della musica. Però visto dagli occhi anche non solo dei musicisti, ma anche di quelli che la vivono, come il pubblico, come gli addetti ai lavori, oltre che come il manager, organizzatori e quant'altro. Avremo ancora modo di parlare con tante figure che fanno parte di questa grande famiglia. E intanto ancora ringrazio te, Miss Francesca Clementoni, per aver co-condotto insieme a me Suoni Paralleli. Ringrazio Organic Shapes, Gabriele Gubellini. Ringrazio Light Minded. Grazie a voi. È stato davvero un piacere, ragazzi. L'ultimo brano con cui vi salutiamo è un brano di Light Minded e Joseph Diel. Sì, il titolo è Vega. Only, vuoi dire qualcosa? A parte farti il nostro in bocca al lupo ufficiale davvero per questa nuova avventura. È solo un anno che è nata, abbiamo già parlato della tantissima produzione di questa nuova realtà discografica indipendente che si occupa di elettronica, che si chiama Switch Music Recording. E vogliamo lanciare questo brano perché poi alla fine, diciamo, è uno dei punti di partenza, è quello da cui poi tutto parte, perché è l'attività che porta ad avere poi, non so, una produzione che diventa una casa discografica, piuttosto che entrare in una release, piuttosto che entrare in una compilation, può essere di varia natura. Questo è un po' uno dei tuoi punti di partenza, è un po' il senso del discorso, giusto? Sì, era esatto, giusto far esatto. ascoltare la tua parte più vera, no? Giustissimo. Questo brano di quando? Questo brano è uscito il 7 marzo e siccome ci tenevo a mettere questo perché abbiamo messo un altro remix mio, quindi ci tenevo a mettere solo delle collaborazioni, non solo brani totalmente fatti da me, quindi questo è fatto con un producer di origine abruzzesi, si chiama Joseph Diel, che è stato resident al Club Reina di Londra per un tot di anni, uno sul pezzo, uno molto forte. Va bene. E niente, ascoltiamolo. Mi fa davvero piacere, anche perché il 99% del nostro lavoro poi è techno e quindi mi fa piacere che lo ascoltiamo tutti insieme. Sì, io direi di davvero, è stato davvero un piacere. Poi questo discorso che riguarda le influenze, le collaborazioni, il mix di culture e di generi musicali è un po' il concept di parola tanto adorata. Non l'avevi Francesca. Ancora detta oggi, bravo. Oggi non l'avevo ancora sei detto. Sei stato concept, bravo, dai. Però insomma, diciamo che concept fa parte un po' del discorso anche oggi, cioè siamo andati ad indagare su quelle che erano le nostre curiosità, ok? È stato un vero piacere, ci vediamo sabato prossimo, Radio Città Fujiko, questo era Suoni Paralleli.